Noi vogliamo fare la rivoluzione e questa la chiami provocazione. Bene, bene, Berlinguer, bene, bene, Berlinguer. Noi lottiamo per il comunismo e questo lo chiami estremismo. Bene, bene, bene, Berlinguer, bene, bene, bene, Berlinguer. Siamo forti, siamo tanti, siamo tutti estremisti. Beh, beh, beh, Berlinguer, beh, beh, beh, Berlinguer. Fiat, OM, auto bianchi, dei padroni siamo stanchi. Beh, beh, beh, Berlinguer, beh, beh, beh, Berlinguer. Chi sono i padroni? Abbiamo imparato, sono quelli che fanno le stragi di Stato. Beh, beh, beh, Berlinguer, beh, beh, beh, Berlinguer. Agnelli, Pirelli, ladri gemelli, Agnelli, Pirelli, ladri gemelli. Beh, beh, beh, Berlinguer, beh, beh, beh, Berlinguer. Se c'è la crisi per il padrone, vuol dire che avanza la rivoluzione. Beh, beh, beh, Berlinguer, beh, beh, beh, Berlinguer. Fabbrica, scuola, caserma, quartiere, la nostra lotta è per il potere. Beh, beh, beh, Berlinguer, beh, beh, beh, Berlinguer. Bombe, riforme, PC e decretone sono le armi del padrone.